Perfetto Mondo. Senator Sanders and I may disagree on tactics, but we share a common vision for the need to provide affordable health care for all Americans. Eccoci qua, buongiorno Giulia Crivelli. Buongiorno. Ecco che abbiamo appena sentito, credo che fosse Biden, giusto? Joe Biden. Sì, la voce di Joe Biden, che è anche qui è proprio una... quasi una visione di plastica di come sono diversi gli atteggiamenti in questo momento dei due candidati democratici e dell'amministrazione Trump. Biden parlava da casa sua dopo aver ricevuto i risultati molto positivi delle primarie, soprattutto quelli della Florida, che lo hanno visto stravincere su Sanders. Ha fatto un discorso a casa sua, certo, sullo sfondo aveva due bandiere americane, però nessun incontro, nessun bagno di folla, non c'era nemmeno la sua famiglia accanto a lui. È molto interessante questo brano, che naturalmente poi queste dichiarazioni vengono riprese da tutti i giornali oggi. Quasi sempre le pagine sono divise in due, da una parte l'aggiornamento sul coronavirus e dall'altro questo sulle primarie, e in questo brano in particolare fa un appello generico ai sostenitori di Sanders e dice: forse abbiamo strategie diverse ma un obiettivo comune, cioè di portare a tutti gli americani un affordable care, cioè delle cure accessibili dal punto di vista economico, e questo sappiamo che è il grande problema negli Stati Uniti. Sta diventando anche un tema ovviamente molto molto più centrale da quando anche in America si è presa coscienza del problema del coronavirus. Anche se alcuni giornali, devo dire, danno conto di questa modalità di un po', noi siamo abituati ai drive-thru di McDonald's, no? Dove c'è lo spazio per passare con la macchina e ritirare il panino che si è ordinato pochi minuti prima. Stanno facendo dei posti di blocco in alcune grandi città, ne parla per esempio il Dallas Times per quanto riguarda Denver, in Colorado, dove proprio ti fermano, ci sono delle persone che ti fermano come se ti controllassero la patente. In realtà fanno un tampone veloce, prendono la tua targa e i tuoi riferimenti, la fila scorre, però intanto i tamponi vengono fatti. Quindi alcune delle cose che Donald Trump ha promesso nella sua conferenza stampa in effetti sono, sì, con la tipica, diciamo, velocità americana, sono già in corso questi tamponi di massa. Ripeto, forse un po' in ordine sparso, torna il grande tema del federalismo, però in effetti in alcune città si sono attrezzati in fretta. Leggevo dalla tua scaletta, Giulia, che si sta già ragionando anche in vista delle elezioni di novembre, perché chissà come ci si arriverà a quelle elezioni. Sì, alcune primarie, adesso è tutto ancora un po' in forse, alcune delle primarie che restano potrebbero essere cancellate o convertite completamente in modalità voto per posta o televoto, e anche per novembre, visto che abbiamo capito tutti, tu parlavi prima della scadenza del 3 aprile, che questa crisi purtroppo non finirà nelle stime più ottimistiche ma in quelle meno ottimistiche, e quindi novembre è dietro l'angolo, e perciò si ragiona appunto già di questo, come si ragiona anche di modalità diverse di lavoro all'interno del Parlamento americano. Molto interessante ho trovato sul New York Times, perché mi leggo a quello di cui parlava Cristina Carpinelli nel servizio prima. Negli Stati Uniti, sapete, esistono tutte queste società, gli alcolisti anonimi, overeaters anonimi, e tutte queste riunioni naturalmente, soprattutto nelle città che hanno già preso dei provvedimenti, o come dicevamo ieri, nelle città dove i cittadini questi provvedimenti se li autoimpongono, sono cancellate, e questo è naturalmente un grandissimo problema, perché sono tutte persone che in mancanza di questo sostegno psicologico potrebbero ricadere nelle loro dipendenze. Quindi conseguenze a medio lungo termine, ancora una volta, di questa crisi da coronavirus. Senti, ma è vero che dai giornali americani hai letto che in queste ore i libri, le biblioteche sono diventati un centro... Sì, questo hamster shopping, no? Sì. Come si dice, cioè fare lo shopping come se si fosse dei castori, poveri castori, sì. Loro semplicemente lo fanno perché devono andare in letargo, e sappiamo che in quasi tutti i paesi si fa incetta di carta igienica, anche in Germania ho addirittura visto dei video, sì, persino sì, divertenti, guardate, lo dico da mezza tedesca, su questa cosa è stato divertente il comico, prendendosi in gioco dei suoi connazionali che fanno scorta di carta igienica. Arriva questa bella notizia raccontata da loro Wall Street Journal, che invece i dati delle biblioteche delle grandi città restituiscono questo scenario, cioè le persone si stanno fiondando nelle varie biblioteche. Devo dire, negli Stati Uniti le biblioteche pubbliche, soprattutto nelle grandi città, New York in particolare, sono meravigliose e si sono tra l'altro digitalizzate, quindi hanno tantissimi servizi utili e quindi stanno, le persone stanno, gli iscritti stanno facendo incetta di libri fisici, di audiolibri, di CD, di tutto quello che potrebbe scarseggiare o che potrebbe essere utile se la quarantena diventasse più lunga di una tradizionale quarantena, che lo ricordiamo si chiama così perché sarebbe 40 giorni, ma abbiamo capito tutti che potrebbe durare va molto oltre di più. In questo caso sarà sicuramente oltre. Che altro, Giulia? Ma se vuoi una curiosità dal New York Times, perché il New York Times quando è il caso, non tutti i giorni, fa un'edizione per l'America e una per l'Europa, e quella europea oggi, nell'America, in quella americana c'è la mappa dei contagi, mentre in quella europea c'è una foto di un cimitero di Bergamo e questo racconto, perché questo è un altro aspetto che a me fa venire i brividi lungo la schiena, il titolo dell'articolo è trovarsi faccia a faccia con la morte da soli, perché come sappiamo il problema di queste persone in rianimazione o in questi reparti che vengono per forza di cose isolati, se sono coscienti doppiamente da brivido, ma anche se non sono coscienti comunque muoiono da soli perché nessuno dei parenti può entrare in queste stanze, e quindi viene preso appunto, questo viene approfondito, c'è l'apertura e poi c'è tutto il racconto a pagina 2 di questa emergenza che hai benissimo raccontato anche tu di Bergamo e di Brescia. Allora, vedo che insomma, ci sarebbero notizie in Gran Bretagna, in Francia, in Svizzera, in Germania, già detto qualcosa. Dove abbiamo sì, ancora anche, un minuto e mezzo. Sì. Mi sembra interessante segnalare perché appunto è un po' come ieri, è tutto legato al coronavirus in un modo o nell'altro, e allora ho trovato, vabbè, per esempio i giornali francesi naturalmente parlano di queste misure, Le Monde fa un viaggio tra le farmacie della Francia che sono 22.000 criticate in passato, poi hanno anche loro dovuto come in Italia diventare un po' dei quasi dei supermarket, vendere un po' di tutto, in questo momento però sappiamo hanno l'obbligo di restare aperte e sono una prima così una, un primo il, un primo riferimento per tutti noi che abbiamo un qualche sintomo, e quindi ha fatto questo viaggio molto interessante, questo reportage che continuerà poi con altre puntate. Poi naturalmente in Francia fa molto effetto la cancellazione della sfilata che Chanel aveva previsto a maggio a Capri avrebbe praticamente coinvolto tutta l'isola, ma naturalmente come tutte le sfilate di questo periodo, che sono un po' quelle a metà tra il periodo tradizionale di gennaio-febbraio e quello di settembre-ottobre, ce le possiamo scordare, è un altro dei tanti eventi che sì. Ci possiamo scordare assolutamente, purtroppo. Giulia, dimmi ancora pochi secondi, vai. Come ultimissima cosa sì. Ti segnalo, perché temo che purtroppo passi sempre un po' in secondo piano, ancora una volta i giornali di tutti i paesi sudamericani, Brasile compreso, Argentina, Venezuela e di tanti paesi dell'Africa ormai dichiarano uno stato di emergenza di fatto o comunque dettato dalla politica, perciò teniamo conto che appunto è davvero questo piccolo nemico che misura tra gli 80 e no, i 60 e i 180 nanometri, quindi che è un miliardesimo di millimetro, è così invisibile, così incosciente del male che fa, ma è veramente ormai dappertutto. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiamo domani, è tutto per questa puntata di Effetto Giorno con Filippo Reggi in regia, Luca Cremonesi in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, ciao.